Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, la settimana prima di Natale, ma saremo in onda chiaramente tutta la settimana. Settimana che si apre dal punto di vista della cronaca sulla scia di come si era chiusa la settimana scorsa, e quindi ancora le audizioni in commissione bicamerale sulle crisi bancarie e ancora l'oggetto che diventa anche politico, perché oggi è intervenuto il ministro Padoan. L'attesa, come abbiamo detto più volte, è per il prossimo 20, quindi diciamo dopodomani, 20 dicembre, quando interverrà l'ex numero uno di Unicredit Ghizzoni. È un'attesa in primo luogo politica, perché dal punto di vista del merito di quello che è successo nelle crisi bancarie cambierà poco l'analisi e la ricostruzione, ma sappiamo che Ghizzoni dovrà confermare o meno se vi è stato un interessamento da parte dell'allora ministro Boschi, come riportato dall'ex direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli, per fare in modo che Unicredit aprisse un dossier e valutasse la possibilità di acquisire Etruria. Oggi invece il ministro Padoan, che poco fa ha corretto alcune dichiarazioni che sembravano una critica ancora più esplicita sulla vigilanza bancaria, e ha detto infatti il ministro, e mi riferivo che in alcuni casi c'è stato un ostacolo alla vigilanza bancaria, non a una carenza nella, quando c'è una frase che, pur riconoscendo che in alcuni casi la vigilanza poteva fare meglio, Padoan ci ha tenuto a precisare che era stato un, lui si riferiva all'ostacolo alla vigilanza bancaria. Perché questo? Perché chiaramente in ballo c'era anche il rapporto tra il ministro dell'economia e la Banca d'Italia. Padoan ha anche chiarito in un passaggio la scelta del governatore, della riconferma dell'attuale governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. Ha detto: lungi da me dire che tutto è andato bene, ma all'interno di questo quadro difficile e in movimento sono stati fatti tutti gli sforzi possibili. E poi sulla Banca d'Italia, la decisione di confermare il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco è stata ispirata essenzialmente alla continuità istituzionale, in un contesto in cui, seppur in fase di miglioramento dell'economia, l'andamento dell'Italia continua a essere importante. Si è voluto dare un segnale ai mercati, pur riconoscendo che in alcuni singoli casi la vigilanza poteva fare meglio. E questa, insomma, è la frase che ha creato, la prima frase che ha creato tensione. L'altra riguarda di nuovo l'ex ministro Boschi, l'attuale sottosegretario Marilena Boschi, perché Padoan, a domanda esplicita, e vi dico anche da parte di chi, perché è stato interpellato dal senatore Andrea Augello, che gli ha chiesto conto dei colloqui tenuti dall'allora ministro Marilena Boschi e Graziano Del Rio sulla vicenda Banca Etruria, e Padoan ha detto: non ho autorizzato nessuno, nessun ministro, e nessuno mi ha chiesto un'autorizzazione. La responsabilità del settore bancario è in capo al ministro delle finanze, che d'abitudine ne parla con il presidente del consiglio, e ha confermato di aver appreso degli incontri della Boschi con alcuni banchieri o esponenti della vigilanza dalla stampa. Non ho mai autorizzato nessuno a parlare con altri di questioni bancarie, né ho richiesto che persone o membri del governo che avessero contatti con esponenti del mondo bancario venissero a riferire a me. Quindi Padoan sostanzialmente si sfila dall'idea che vi possa essere, diciamo, stata un'azione di governo concertata, e sotto traccia dice: è stata un'iniziativa del singolo ministro, in questo caso Boschi, non certo un'iniziativa spinta da me o chiesta da me, né ho mai chiesto ai ministri di riferirmi delle loro iniziative. Diciamo che non è un appoggio, mettiamola così, non sarà una critica diretta, ma è un passo a lato, se vogliamo, come dire, io non c'entro in quelle che sono state le iniziative, a questo punto, personali dell'allora ministro Boschi. Ma ripeto, tutto poi si concentrerà sul 20 di dicembre. Ancora una volta devo fare una distinzione. So che alcuni vorrebbero che attaccassi l'operato della Boschi in maniera ad alzo zero, oppure invece riconoscessi che non c'è problema. No, la situazione è un po' diversa, non è una questione di lana caprina. Nel merito di ciò che ha portato alla crisi delle quattro banche, Etruria, Chieti, Ferrare, Marche, e anche poi, ma non c'entra il caso della Boschi, delle Venete, Popolare di Vicenza, Veneto Banca, di Cassa di Risparmio di Genova, quello che riguarda la Boschi c'entra poco nulla nel merito, non è cambiato, non è successo nulla, nessuno ha acquisito l'Etruria e quant'altro. Altra cosa invece è l'elemento politico, e lì il peso è fortissimo, è evidentissimo, non solo perché si è in campagna elettorale, ma anche perché il peso politico è il peso che valuta l'opportunità, non quello che è successo poi nel merito e nella sostanza. E quello di oggi non è sicuramente un assist alla Boschi. Padoan si sfila e dice: io non ho mai autorizzato nessuno, i rapporti in questi casi li tiene il Ministro delle Finanze, che riferisce al Presidente del Consiglio. Ero io Ministro delle Finanze, riferivo al Presidente del Consiglio. Questo è un tema. L'altro tema invece riguarderà l'economia reale, nel senso che oggi c'è un ottimo dato sulle esportazioni italiane nel mese di ottobre, sono cresciute anche le importazioni, la cosa importante è che sono aumentate soprattutto le vendite verso i mercati dell'Unione Europea, c'è stata una leggera più 2,8%, una leggera flessione nell'area extra UE. Ma dicevo, ottobre 2017 rispetto a un anno prima, il nostro export ha fatto più 11%, questo sia nella parte Unione Europea più 13% che nei paesi extra Unione Europea più 10%. A questo punto l'aumento delle nostre esportazioni porta verso l'alto il surplus commerciale, cioè la differenza tra quanto esportiamo e quanto importiamo. Siamo a 5 miliardi contro i 4 miliardi e 200 milioni dell'ottobre 2016. Tra l'altro è chiaramente non è che si sia fermato l'import e quindi il dato è positivo perché le importazioni calano. No, le importazioni sono aumentate nel dato, diciamo, tendenziale anno su anno, è che è cresciuto molto bene anche l'export. Di questo parleremo, anche perché anno su anno gli Stati Uniti hanno fatto più 17%, la Francia più 16%, Spagna più 15%, Regno Unito più 13%, Germania più 12%. Ne parleremo in apertura, perché sappiamo ormai da varie ricerche, ne cito una su tutte, quella di Prometeia, condotta per il nostro Ministero degli Esteri, che ormai noi abbiamo avuto un incremento anche delle operazioni di contratti vinti dall'Italia all'estero, un incremento importante da questo punto di vista, da 23 miliardi del 2014 a 39 miliardi, ma soprattutto sappiamo che ormai sono circa mal contate 200.000 le imprese esportatrici, inglobando anche tutta la filiera, mentre il problema resta su quel milione di imprese, più o meno, anzi sono un po' di più, sono quasi più del doppio, che vanno soprattutto e lavorano soprattutto sul mercato interno, sul mercato dei consumi interni. Comunque parleremo anche del nostro export e poi una vicenda che vi hanno già raccontato i nostri GR24, la Borsalino, qui invece no, qui la notizia non è buona, storica azienda di cappelli di Alessandria, è fallita. A questo punto il giudice Caterina Santinello ha emesso oggi la sentenza rigettando la seconda richiesta di concordato preventivo presentata dalla RS Equita SRL, ossia l'imprenditore svizzero Camperio che gestisce l'azienda dopo l'affitto del ramo. Sarà l'occasione per ricordare come un marchio così importante, così conosciuto anche all'estero, sia in un periodo in cui il lusso italiano, non solo, ma in primo luogo quello italiano, tira così tanto, come mai sia fallito. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Partiamo come sempre con l'economia internazionale. La Commissione Europea, anche in questo caso la notizia l'avete probabilmente ascoltata dai nostri GR24, ha aperto una indagine approfondita sul trattamento fiscale che l'Olanda, questa volta non l'Irlanda, ha riservato all'IKEA, o meglio Inter-IKEA, uno dei due gruppi che operano il business di IKEA. Secondo l'antitrust europeo, grazie agli accordi fiscali, a due accordi fiscali soprattutto fatti con l'Olanda, uno nel 2006 e l'altro nel 2011, ha pagato meno tasse del dovuto. E voi direte, perché interviene l'Unione Europea? Perché ritiene che in questo caso ci sia un vantaggio illegale nei confronti di altre aziende. In effetti, quando citiamo la concorrenza interna dell'Unione Europea al fatto e gli accordi che l'Irlanda, piuttosto che l'Olanda o il Lussemburgo hanno preso con grandi colossi, parliamo sempre di equità e anche di una giustizia per cui tu dovresti pagare le tasse come fanno tutti nel paese in cui, o meglio come fanno quelli che vogliono pagare le tasse, nel paese in cui fai e produci i ricavi, non la triangolazione che ti permette di pagarle poi là dove ti è più conveniente. Ma oltre a un danno, diciamo, per le entrate dello Stato in cui tu fai i ricavi, magari togli anche i posti di lavoro, ma poi fatturi tra virgolette, quindi vai a pagare le tasse sugli utili in un altro paese, c'è anche un problema di concorrenza sleale rispetto a chi, magari avendo sede in Italia o in Francia o in Germania, ha una completamente diversa pressione fiscale. Allora, nella Banca Centrale Europea, nel giorno in cui l'inflazione viene vista da Eurostat, viene registrata all'1,5% nell'area euro, all'1,1% in Italia, allo 0,2% a Cipro, allo 0,5% l'Irlanda, 0,9% la Finlandia, il Regno Unito 3,1%, qui parliamo di Unione Europea 19%, ma sostanzialmente siamo all'1,5%. Dicevo, in questa giornata, oggi la Banca Centrale Europea ha annunciato che nel 2018 vi saranno nuovi stress test per le banche cosiddette significative significative nell'Unione Europea, e quindi le banche vigilate dalla Banca Centrale Europea. Ha detto che saranno svolti due esercizi complementari. Restiamo in tema bancario, perché all'interno dell'audizione del ministro dell'economia Padoan c'è un passaggio che riguarda invece proprio gli NPL, cioè le sofferenze bancarie, non performing loans, che zavorrano ancora molto le banche italiane e che comunque sono scesi da un picco di 361 miliardi nel 2015 a 287 miliardi, meno 25%. Tant'è che il ministro Padoan dice che la strategia sui non performing loan sta dando i suoi frutti. Del resto degli interventi di Padoan, cioè quelli nel merito delle banche, della vigilanza bancaria, dell'allora ministro Boschi, parleremo nella seconda ora. Però vorrei far ascoltare questo passaggio proprio sull'andamento delle sofferenze bancarie. Lo sviluppo di un mercato dei crediti deteriorati. In questo contesto va poi menzionato il progetto di una bad bank pubblica. Su questo tema, come è noto, è stato avviato un complesso negoziato con la Commissione europea volto ad individuare una metodologia che, in assenza di prezzi di mercato osservabili, consentisse di calcolare un prezzo di trasferimento per ciascuna tipologia di crediti deteriorati assimilabile a un prezzo di mercato e pertanto privo di componenti di aiuto pubblico. La discussione con la Commissione europea è stata particolarmente complessa e non ha consentito di individuare dei prezzi che avrebbero reso l'intervento efficace. All'esito del confronto si è però condiviso il progetto delle GACS, la garanzia dello Stato sulla tranche più sicura dei titoli emessi nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avente come sottostante crediti in sofferenza. La Commissione europea ha convenuto su criteri di determinazione del prezzo della garanzia tali da evitarne la qualificazione come aiuto di Stato. Insomma, l'intervento del governo ha sbloccato un mercato che non esisteva. La strategia messa in campo sta dando frutti. Il valore lordo complessivo dei crediti deteriorati ha raggiunto il picco di 361 miliardi nel 2015. Tenendo conto delle operazioni già definite e in corso di completamento, il valore oggi si attesta a 287 miliardi, con una riduzione superiore al 25%. Il rapporto fra crediti deteriorati lordi e il totale dei crediti, dopo aver raggiunto il picco del 2015 al 18,2%, passa al 14,4%. Il rapporto fra i crediti netti e il totale dei crediti passa invece dal 10,9% all'8%. Bene, arriviamo adesso al primo tema, l'aggiornamento sulle borse, come sempre, che sono in fase di chiusura, sicuramente Milano più 0,70%, Parigi più 1,40%, Francoforte più 1,5%, Londra più 0,60%, Dow Jones più 0,70%, Mediaset perde il 2,70%, Pirelli l'1,20%, Banco BPM meno 0,60%, invece Saipem più 5%, Leonardo più 3% come Buzzi Unicem, Case New Holland più 2,60, Moncler più 2,30 come Campari, il 2% lo guadagnano Unipol, Fiat Chrysler, Tenaris, Snam e Snam. Due notizie brevissime prima di passare al tema del nostro export, di come si stanno riposizionando le nostre imprese, si sono già riposizionati in alcuni casi. Allora, l'Assemblea del Monte dei Paschi di Siena presente il 75% del capitale e quindi il Tesoro al 68,2%, le Generali al 4,3%, deve deliberare su copertura di, sulla copertura di 5 miliardi e 300 milioni di perdite. E poi nel giorno in cui insomma entra lo Stato ufficialmente è Stefania Baratti il nome indicato dal Tesoro per ricoprire il ruolo di Presidente del Monte dei Paschi, lasciato vacante da Alessandro Falciai, che ricordate a fine settimana scorsa si è sfilato. Per quello che riguarda il nome di Stefania Baratti, faccio anche notare un'altra cosa, che l'amministratore delegato del Monte dei Paschi, Marco Morelli, ha detto che il percorso di recupero dei ricavi e della redditività durerà tantissimo tempo e come la guerra del 15-18 si sposta al sacco pochi metri in avanti e poi magari si torna indietro. Altra notizia invece che riguarda la manovra, perché ha annunciato il capogruppo in Commissione Bilancio della Camera per AP, Paolo Tancredi, che grazie al ruolo di AP è stato ottenuto il rifinanziamento completo per il 2018 del bonus bebè, ma soprattutto il raddoppio delle detrazioni fiscali per i redditi dei figli a carico delle famiglie. La soglia sostanzialmente per la detrazione fiscale per i figli a carico passa da 2.000 a 4.000 euro. Allora, qualcuno di voi mi fa notare che non gli tornano i conti sull'indice che abbiamo dato e ha probabilmente ragione, perché abbiamo problemi con il terminale. Adesso lo vedo riaggiornato ed è all'1,31%, quindi ha ragione chi scrive e parla del suo browser. Purtroppo ogni tanto i sistemi si fermano. Adesso abbiamo è ripartito, più 1,31% Milano a 22.383 punti. Dicevo, i dati crescono a ottobre le importazioni e anche le esportazioni. La cosa più importante è che rispetto a ottobre del 2016 abbiamo un più 11,3% di export, che riguarda un più 13% l'area europea e un più 10% quasi paesi extra europea, determinato appunto dall'espansione dell'importazione in tutte le aree, delle esportazioni scusatemi, in tutte le aree di sbocco. Nel caso specifico, sempre a livello di anno su anno, le esportazioni verso gli Stati Uniti più 17%, Francia più 16%, Spagna più 15%, Regno Unito più 13%, Germania più 12, surplus, come dicevamo, va a 5 miliardi a ottobre del 2017. Vedremo come si chiuderà l'anno. La cosa interessante è che non solo l'anno scorso la nostra quota, fatto 100 tutto il commercio mondiale, la quota di Made in Italy è per la prima volta da 10 anni tornata a crescere un po', continuava a scendere perché il Made in China, il Made in India e via così si imponeva, è tornata a crescere di nuovo vicino al 3%. tra l'altro la parte di manifattura, anche questa è tornata a crescere, è andata al 3,5% del totale, noi siamo la seconda manifattura d'Europa. Ma elemento a mio avviso ancora più importante, oltre che l'aumentare della nostra, di quanto è Made in Italy nel mondo, è quanto pesa l'export rispetto al pre-crisi. Allora, prima della crisi e di questo cambio, che ormai non chiamiamo più crisi ma chiamiamo rivoluzione vera e propria, l'export contribuiva circa il 20%, quindi valeva un quinto dell'intera economia italiana. Adesso è salito a più del 25%, siamo intorno al 26%. Perché ha aumentato l'export e perché si è ridotta la componente della domanda dei consumi interni. Però cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, quindi guardare la parte dell'export, e lo facciamo con il professor Giorgio Barba Navaretti, che insegna economia internazionale alla Statale di Milano, nonché è editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera, professore. Buonasera a voi. Mi chiedo un ascoltatore chi è la prima manifattura d'Europa. Pensavo fosse intuitivo, è chiaramente la Germania, poi noi seguiamo al secondo posto. Vorrei capire appunto, avere un suo commento dopo il metodo e la pubblicità su queste 200.000 più o meno imprese esportatrici, il cui reddito all'estero è esploso, perché noi tra l'altro come reddito all'estero quest'anno svilupperemo 440 miliardi come quello che queste imprese riescono a sviluppare come fatturato all'estero, contro i 356 miliardi del 2011, il che vuol dire che più o meno in 5-6 anni abbiamo aumentato i fatturati delle nostre imprese all'estero di quasi 100 miliardi, non è poca cosa. Questo non è la differenza tra export e import, sto parlando delle singole imprese. Anzi, mi faccio subito un commento su questi dati, poi invece veniamo alle altre imprese, ai 2 milioni più o meno di imprese che non riescono ancora ad agganciare i mercati internazionali. Le notizie sono buone, il nostro export è sicuramente uno dei fattori trainanti della nostra economia e anche spiega in gran parte la ripresa, e al di sotto di questo dato aggregato c'è stata, come diceva lei prima, una grande rivoluzione nel sistema industriale, nel senso che chi esporta oggi non sono necessariamente le imprese che esportavano prima della crisi, e forse chi lo fa comunque in modo diverso di prima, quindi c'è molto da dire ed è un riflesso molto importante appunto dell'evoluzione del nostro sistema produttivo. Che si conferma, perché alcuni pensavano abbiamo fatto una fuga, abbiamo avuto un incremento 2015-2014, ma poi questo si fermerà. Invece mi sembra di poter dire, professor Barbara Navaretti, che aumenta la quota anche, non solo di quanto fatturiamo all'estero, ma anche la quota di penetrazione nei mercati. Questo è il dato più importante, perché le esportazioni italiane sono cresciute per molto tempo, però effettivamente nel periodo prima della crisi, dove eravamo abbastanza competitivi, comunque perdevamo quote di mercato rispetto al resto del mondo, appunto la Cina, l'India, come ricordava lei. Adesso meno, riusciamo a mantenere la nostra quota di mercato, e questo è un dato importante, effettivamente vuol dire che riusciamo a difenderci anche dai concorrenti più agguerriti, sicuramente questo è un buon segno. Ecco, tutto questo, ricordiamolo, è avvenuto, visto che stiamo compiendo e continueremo a farlo, anche interviste, un ciclo di interviste con imprenditori, manager, dal sottotitolo, insomma, un sottotitolo copiato dal rapporto Censis, ripresa economica ma crescere ancora. Dicevo, questo è avvenuto, professor Barbara Navaretti, perché le nostre imprese non hanno innovato solo sul processo, cioè storicamente noi andavamo anche per ridurre un po' la conflittualità sindacale a innovare molto sui processi, cioè come viene fatto il bene, il manufatto, ma abbiamo rivoluzionato anche il prodotto finale, quindi l'innovazione ha riguardato anche il prodotto. Sì, ha riguardato il prodotto, infatti se noi guardiamo i valori unitari, cioè i prezzi dei nostri beni esportati, sono aumentati leggermente, il che significa che abbiamo anche migliorato la qualità, diciamo, dei prodotti esportati, e questo è effettivamente un cambiamento molto importante rispetto a un modello che era il modello, diciamo, antecrisi, addirittura ante-euro, in cui le imprese italiane ritrovavano la propria competitività svalutando l'euro, cioè abbassando il più possibile i costi di produzione. Oggi non si fa solo così, questo è un elemento importante, ma non è l'unico, è fondamentale sicuramente rafforzare la qualità dei nostri prodotti e così conquistare quote di mercato. Ecco, devo dire, visto che noi critichiamo spesso con la classifica lo spreco di denaro pubblico, la classifica del venerdì, che la sensazione che noi abbiamo è che stiano funzionando anche meglio tutti quei soggetti parzialmente pubblici o pubblici del tutto che dovrebbero aiutare le nostre imprese. Mi riferisco all'ICE, mi riferisco al ruolo del Ministero degli Esteri, mi riferisco al ruolo di SACE e Siemens sul fronte appunto di accompagnare le imprese e dare le garanzie, l'assicurazione sui crediti. È solo una sensazione o all'interno di queste operazioni condotte all'estero, che sono passate a quasi 40 miliardi di euro, quindi operazioni di investimenti italiani, di progetti italiani realizzati all'estero, c'è anche un ruolo più efficiente dei soggetti pubblici o parzialmente pubblici o partecipati? Sicuramente l'efficienza è migliorato, sono state attivate anche delle rivoluzioni istituzionali, se vogliamo, nel senso che per esempio SACE e Simest sono state parzialmente unificate in un unico polo di supporto delle esportazioni sotto la Cassa Depositi e Prestiti, quindi sono state fatte delle attività che hanno un po' ridisegnato il supporto pubblico all'export italiano, e questo è sicuramente molto importante, però non sarebbe ovviamente sufficiente. Quello che conta è il fatto appunto che le nostre imprese sono riuscite a cambiare pelle. Conta anche per esempio il fatto che, dal punto di vista del governo, che il governo ha dato dei forti incentivi alle imprese per investire in beni strumentali, ed oggi forse il nostro settore più competitivo, quello che ha il maggiore surplus della bilancia commerciale, è proprio quello delle esportazioni dei beni commerciali, che ha potuto rafforzarsi sul mercato strumentale, ha potuto rafforzarsi, quindi le macchine, gli impianti eccetera si sono rafforzati sul mercato interno ma anche sul mercato delle esportazioni, e questo effettivamente è un punto importante, e questo in parte grazie al supporto del governo. E qui il riferimento a iperammortamenti e superammortamenti, quindi 140%, 250% di detrazione dell'investimento, anche qui per digitalizzare l'impresa in un caso, ma in realtà è per arrivare a un prodotto diverso, non a solo un processo diverso. Allora, dopo il metodo e la pubblicità, invece la domanda più spinosa. Da un lato, se quanto secondo lei questa quota del nostro Made in Italy potrà continuare ad aumentare, ma soprattutto se continuerà ad aumentare con le più o meno 200.000 imprese che hanno fatto questa trasformazione e quindi andrà ad incrementare i loro bilanci, i loro fatturati, o se invece si potrà allargare la platea delle imprese, perché è chiaro che se il rapporto è di 1 a 10 più o meno, 200.000 imprese che sono ben posizionate all'estero e 2 milioni che invece ancora soffrono perché sono sul mercato interno, mi scrive giustamente un ascoltatore, beh, adesso è chiaro perché cresce l'economia ma cresce anche il rancore, perché riguarda un numero alto ma ancora parziale rispetto al totale delle imprese italiana. La risposta dopo il meteo e la pubblicità, 349-238-6666 per sms e whatsapp. C'è un piccolo territorio nel cuore della Lombardia, ricco di storia, arte e natura, patria di un vino di altissima qualità. È la Franciacorta, viti dalla storia antica e metodi moderni. Franciacorta, una storia di passione. Spesso i buoni affari hanno bisogno di decisioni rapide e di informazioni utili in tempo reale. Scarica l'app di Credit Reform e puoi leggere subito e ovunque tutte le informazioni sulle aziende europee che ti interessa conoscere meglio. Credit Reform App, semplice, rapida, conveniente, da smartphone e tablet. Credit Reform, primo in Europa per le informazioni commerciali. 800 42 53 25 o creditreform.it. Beato festeggia Disney Pixar Coco al cinema, e lo fa con un'offerta assolutamente, decisamente loca. 500 L è tua a 15.500 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento meno 1.000 anziché 16.500 euro. E in più, per tutte le famiglie, 1.000 euro di extra sconto. Cosa? Famiglie, correte in concessionaria. TAN 595, TAI GOT 01, salvo approvazione FCA Bank. Fino al 31 dicembre sulla pronta consegna. Info su fiat.it. Stress da lavoro? Ricaricati tra le Dolomiti. Nella schiare a San Martino di Castrozza Passorolle ti aspettano piste perfette e panorami mozzafiato per un break all'insegna di sci, divertimento e benessere. Segui le webcam su sanmartino.com. Le avventure sulla neve sono già iniziate. Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Ehi amico! Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori. Evviva! Vai su agenti.it. Agenti.it. Dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè! Ecco il re. Porta anche tu a tavola un re, il culatello di Zibello Dop, il re dei salumi, unico e inconfondibile come la sua terra d'origine, la Bassa Parmense. I nobili e potenti di un tempo gli hanno tributato onori, famosi poeti hanno decantato il suo gusto delicato e irresistibile. Ricorda, il vero culatello Dop è solo di Zibello. Culatello di Zibello Dop. Buono come lui, non c'è nessuno. Programma di sviluppo rurale dell'Emilia Romagna 2014-2020. Info su ER Agricoltura. Ascolta me, il tuo pensiero positivo. Quello del bicchiere mezzo pieno, sì, lui. Quello che se ti dice che troverai parcheggio sotto casa, lo troverai. Oggi ti dico, scegli online un'offerta Eni Gas e Luce. C'è un anno in regalo da vincere ogni giorno. Un anno di gas o luce, mica robetta. Scordavo, subito tuo un buono da 50 euro spendibile sull'e-store di Eni Gas e Luce con un ordine minimo di 55 euro. Concorso misto valido fino al 14 gennaio 2018. Montepremi 245.000 euro. Regolamento su enigaselluce.com. Cerco un dolce senza lattosio. Freddi. Lo vorrei con meno di 100 calorie. Freddi. Voglio una merendina dal gusto diverso ogni giorno. Freddi, dolcetto Freddi, nei gusti di fragola, albicocca, cacao, ciliegia o ricoperta di glassa fondente. Senza la piccola impresa, all'Italia manca una nota di creatività, di passione, di innovazione, una nota di sapere artigiano. Da sempre la piccola impresa fa parte del panorama italiano. Da sempre Confartigianato la rappresenta. Confartigianato, ritratto d'impresa. A Natale sono tutti più buoni. Anche MediaWorld, con lo smartphone Samsung Galaxy J5 2017 a 179 euro fino al 24 dicembre. E in più, cattivissimo Me 3 in Blu-ray a 16,99 euro. Buone feste da MediaWorld. State ascoltando un programma offerto da... Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. :17:42, dunque, professor Baba Navaretti, fermo restando queste 200.000 imprese che ormai, diciamo, si sono benissimo collocate su mercati esteri, e che il cui reddito è passato, addirittura è aumentato di 100 miliardi negli ultimi 6 anni, portando la quota del Made in Italy a tornare a crescere dopo 10 anni che continuava a calare, fatto 100 il totale del commercio, siamo tornati al 3%, e anche aumentando, diciamo, se guardiamo la manifattura, aumentando ancora di più al 3,5%. Lei pensa che ormai la partita sia una partita chiusa, cioè anche se arrivassero nuovi dati positivi l'anno prossimo sull'export, saranno sempre relativi a queste 200.000 imprese, o c'è ancora la possibilità per altri di fare questa trasformazione? E seconda domanda, come si portano, diciamo, come si fa a fare un percorso agli oltre 2 milioni di imprese che invece non vivono di export o ci vivono marginalmente e vivono ancora di mercato interno? Guardi, se noi guardiamo le nostre esportazioni, c'è chiaramente una, si può dire, una distribuzione bimodale, ossia c'è un gruppo molto grande di esportatori che sono esportatori relativamente piccoli, che esportano in pochi paesi, che esportano pochi prodotti, quasi 40% degli esportatori, sono tanti, che però contano per il 4% delle nostre esportazioni aggregate. Dall'altra parte c'è un gruppo di grandi esportatori, quelli di cui parlava lei, che sono imprese che esportano in molti paesi, esportano molti prodotti, e sono non tantissimi, il 15% degli esportatori, ma esportano oltre il 60% delle nostre esportazioni. Quindi è chiaro che le quote di mercato, o diciamo la nostra posizione sui mercati mondiali, dipende da questi grandi esportatori che sono generalmente molto efficienti, che riescono a fare abbastanza profitti per essere presenti in molti mercati. Ma questo non è un caso solo italiano, è un caso generale. Le esportazioni di tutti i paesi avanzati sono strutturate in questo modo e molte concentrate in poche grandi imprese molto efficienti. Poi noi abbiamo tantissimi esportatori, ma diciamo rispetto al dato aggregato rimangono marginali. È chiaro che però non possiamo ragionare solo in termini statici di una fotografia, è chiaro che le imprese diventano grandi esportatori, si trasformano e probabilmente i grandi esportatori di oggi non sono necessariamente quelli di ieri. E quindi, come dice lei, giustamente è importante capire in che modo funziona la transizione da piccoli esportatori a grandi esportatori. Sì, faccio anche notare che dentro questi esportatori, soprattutto dentro i medio-grandi, c'è tutta una filiera di imprese, fornitrici o subfornitrici, che non risultano magari esportare perché vendono il loro cliente è italiano, però che sono quelle che noi diciamo che si sono messe nella filiera del valore, perché puoi avere anche 20 dipendenti, 30 dipendenti, 10 dipendenti, ma se tu fornisci un pezzo, una componente, un servizio a chi è poi ben posizionato sui mercati esteri, sei anche tu, è come se anche tu esportassi, non so come dire, che ti fossi posizionato su questi mercati esteri, anche se stai lavorando solo con il tuo 1, 2, 3 clienti italiani, che però hanno una grossa proiezione internazionale. Professore, ho capito cosa dice lei, ma è a quel punto delle altre due, è ovvio che non possiamo immaginare tutte le 2 milioni e passa imprese italiane a esportare, ma per tornare al tema della ripresa in corso ma cresce il rancore, perché poi a mio avviso anche da lì deriva, cioè una pattuglia ancora troppo piccola di imprese che hanno degli ottimi numeri nei mercati esteri e il resto che arranca sul mercato interno, lì invece... No, questo sicuramente è vero, ci vuole una transizione verso il mercato internazionale, però certamente non tutti ce la faranno. Il tema è un tema che riguarda un po' la trasformazione del sistema delle piccole imprese in Italia. Le piccole imprese garantiscono tantissima occupazione e reddito per moltissime famiglie, ma oggi le piccole imprese devono in qualche modo trasformarsi, diventare più efficienti, più competitive, più trasparenti, per poter avere accesso ai finanziamenti, per poter fare abbastanza profitti che permette loro poi di diventare degli esportatori e a poco diventare degli esportatori internazionali. C'è un'associazione molto molto forte tra produttività, qualità dei prodotti ed esportazioni, cioè per diventare grandi esportatori bisogna muoversi verso prodotti di più alta qualità, bisogna essere più efficienti dal punto di vista del sistema produttivo. Certamente il legame con le grandi imprese come fornitori è molto importante, ma diciamo che non è sufficiente, nel senso che poi bisogna muoversi autonomamente su dei mercati dove ci sono più clienti, clienti diversi, eccetera. È un processo lento, ma è un'inevitabile transizione dove non tutti ce la fanno, ma molti ce la possono fare. Sempre più imprese, secondo me, ce la stanno facendo. Ecco, per concludere, però, dobbiamo dimenticarci definitivamente, insomma, il mercato nazionale come un mercato alternativo all'export, perché qualcuno mi scrive, ma non è che possiamo andare avanti solo a esportare, ma insomma, quello che noi abbiamo visto però è che i ricavi e l'aumento dei fatturati li fai quando esporti. Non sono d'accordo con chi mi scrive il dato sull'export è l'effetto della svalutazione interna. Se capisco bene, immagino la pressione salariale, perché l'euro non si può svalutare. Beh, certo. Non sono così d'accordo, però vorrei sentire anche lei su questo, perché in realtà noi dove abbiamo successo l'abbiamo con prodotti di fascia alta o comunque medio alta, quindi quel dove il prezzo è alto, non è concorrenziale le economie emergenti. Comunque no, e poi soprattutto noi siamo riusciti anche a guadagnare quote di mercato in anni in cui l'euro era molto forte, no? Quindi non avevamo nessun vantaggio a livello competitivo sui mercati internazionali, mercati extraeuropei, diciamo così. Quindi sicuramente oggi si fa anche molta competitività e molta competizione attraverso la qualità e l'efficienza, e quindi non necessariamente sulla compressione dei costi, anzi sono sicuro che le imprese che esportano di più sono imprese che anche pagano salari più alti, secondo me. Senta, ma per concludere sull'altra domanda invece, cioè ci dobbiamo dimenticare il mercato interno, se non per così con qualche variazione marginale, ma come... Non dobbiamo mai dimenticare il mercato interno. No, dico nel futuro, da lì non arriverà nessuna... Ma non credo, perché il problema è che l'Italia è certamente c'è stata in Italia una depressione del mercato interno che ha ridotto il contributo del mercato interno alla crescita, ma se c'è ripresa ovviamente anche il mercato interno riprende e le due cose sono fortemente correlate, come ricordavamo prima per i beni strumentali, no? Effettivamente i beni strumentali sono cresciuti moltissimo in Italia anche sul mercato interno grazie agli incentivi pubblici e allo stesso tempo hanno rafforzato la loro posizione sui mercati internazionali, quindi le due cose sono complementari, è ovvio che per molte aziende poi il mercato interno rimane cruciale. Allora, grazie intanto al professor Giorgio Barba Navaretti, andiamo sul traffico e dopo parliamo di un altro caso, a maggior ragione abbastanza singolare, visto quello che abbiamo appena detto. Cioè, sappiamo che va molto bene l'export italiano, che sta andando molto bene anche nel 2017, ormai il dato di ottobre, ma non abbiamo motivo per dubitarne, che nell'export italiano va molto bene i beni strumentali, quindi meccanica e quant'altro, ma anche tutto ciò che è made in Italy più classico, quindi lusso, o made in Italy più classico nell'immaginario, volevo dire, lusso, moda, abbigliamento e agroalimentare. Ecco perché diventa strano in questi giorni commentare il crack poi parzialmente rientrato, ma insomma il crack c'è, cioè della Melegatti, perché insomma tu puoi immaginare tutto nel momento in cui i pandori e i panettoni italiani vengono venduti in tutta Europa e in tutto il mondo. Una società del genere va in crisi per un problema di gestione dei soci, non per un problema di prodotto, delle due famiglie, le Baruffe e Chiozzotte, di cui abbiamo già detto e di cui purtroppo il Veneto ogni tanto ci ha abituato. Pensate alle varie vicende Coin, Stefanelle e quant'altro. E oggi è andata in crisi la conclamata, diciamo, il tribunale, la Borsalino, anche qui moda di un mercato, un marchio fortissimo. Non è il prodotto il problema, è la gestione. Ne parliamo dopo il traffico. Focus Economia. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Allora, as time goes by, non siamo impazziti. Perché? Perché in una delle scene lungo tutto il film Casablanca Humphrey Bogart vestiva un borsalino, così come Alain Delon in tantissimi figli e tantissimi film, scusatemi, questi figli è un lapsus freudiano di Delon, ma tantissimi film con la mala marsigliese. Insomma, Borsalino è un marchio nato nel 1857 da Giuseppe Borsalino, artigiano alle porte di Alessandria, e ha creato questo cappello in feltro che appunto ha preso il nome di Borsalino. Ora chiedo a Giulia Crivelli del Sole 24 Ore, buonasera Giulia. Buonasera a tutti. Come si fa, un po' come nel caso Melegatti, con questi numeri dell'export, con questa voglia di Made in Italy, con un marchio così famoso che conoscono tutti all'estero, a aver visto oggi decretare il fallimento dell'azienda, come ha stabilito appunto il PM, prego. Sì, è un'azienda, una piccola eccellenza italiana. Tra l'altro parliamo di Casablanca perché è nell'immaginario di tutti, ma un borsalino lo indossava anche nella Grande Bellezza, il protagonista, certo, della Grande Bellezza. Quindi 125 addetti, un export probabilmente oltre l'80%, piccola, circa 20 milioni di fatturato, cresciuto, questo è il colmo secondo me, cresciuto negli ultimi due anni, high single digit. In questo momento l'azienda operava sotto il cappello dell'affitto di ramo d'azienda, perché nel 2015 era stata salvata da questo imprenditore italo-svizzero Philip Camperio, che aveva già investito tra l'altro 6 milioni, che se pensate su 20 di fatturato è un'ottima cifra. Il problema è che questa azienda ha incontrato sulla sua strada un filibustiere. Facciamo nome e cognome. Tale Marco Marenco, che non so chi lo ricorderà, comunque nel 2015, più o meno due anni fa, è stato protagonista di un crack e di accuse di bancarotta fraudolenta in un crack da oltre 3 miliardi di euro. Lui faceva il trading di gas. In questo grande crack è finita anche Borsalino. E qui questo è successo probabilmente per due ragioni. Dalla prima, appunto, che i filibustieri esistono e purtroppo questo signore ha deciso di comprare Borsalino.

Gianluca Nicoletti, dalla stazione di Radio 24. Comunicazione di servizio. Il mio viaggio in treno continua. Chi volesse saperne di più, mi ascolti ogni sabato alle 15. Monitorare e gestire i costi dell'energia elettrica è una sfida cruciale per le imprese. ABB, leader nelle tecnologie per l'energia e l'automazione, porta le soluzioni ABB Ability nelle aziende che, grazie alla digitalizzazione, aggiungono valore alla supervisione e gestione dei consumi attraverso soluzioni in cloud o locali. Una competenza consolidata al servizio del futuro delle imprese. ABB. Let's write the future together. Noi di Mercedes-Benz vorremmo augurarti un 2018 in cui raggiungere obiettivi più alti nella vita ed emissioni più basse in strada, dove superare i tuoi limiti riducendo i consumi. Ma perché aspettare? Fino al 31 dicembre hai 4.000 euro di eco-incentivo Mercedes-Benz su tutti i modelli se permuti un'auto diesel da Euro 1 a Euro 4. Quest'anno ha ancora molto da offrirti. Scoprilo su mercedesbenz.it. Il Natale è da Euronics con il sottocosto. Fino al 24 dicembre, Xbox One S 500 Giga con Rocket League, tua a 199,99 euro. 1800 pezzi disponibili. Euronics ti ascolta, davvero. Cerco un dolce senza lattosio. Freddi. Lo vorrei con meno di 100 calorie. Freddi. Voglio una merendina dal gusto diverso ogni giorno. Freddi. Dolcetto Freddi. Nei gusti di fragola, albicocca, cacao, ciliegia o ricoperta di glassa fondente. Stefano, allora? Ti sbrighi? Sì, Giulia, certo, se mi dessi una mano. Vabbè, dai, un po' di aiuto te lo meriti. Devo preoccuparmi? Ma no, Stec, mi hai promesso un weekend a base di Falerno. Salerno, Giulia, io penso sempre a mangiare, ma tu pensi sempre a bere, eh? Meglio un po' brilla ma felice che in sovrappeso e... Cretino, immagino volessi dire. Ste, stai imparando. Passaggio in Italia. Scopri di più sabato dalle 16 in Radio Tube. Ascolta e scarica la radioguida su radio24.it e su touringclub.it. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, Giulia Crivelli, quale sarà adesso il destino della Borsalino? Perché se restasse il fallimento, se ho ben capito, andrebbe all'asta. Sì, io credo che a questo punto, anche se si erano fatti avanti in passato, i fondi staranno un po' alla larga, i fondi di private equity, perché non è neanche chiaro di quanti debiti il famoso signor Marco Marenco abbia caricato la Borsalino. È probabile l'interesse, però a quel punto, appunto, andando all'asta, verrà veramente svenduta, purtroppo, l'interesse di un grande gruppo, e sappiamo che sono sostanzialmente francesi. Due i gruppi francesi, LVMH o Kering, o forse magari di un'azienda. Il grande gruppo potrebbe rilanciare il marchio. LVMH l'ha fatto con Berluti tanti anni fa nelle scarpe, che aveva all'epoca più o meno la dimensione di adesso di Borsalino. L'idea è di comprare il know-how ma anche il marchio, perché è famoso nel mondo. Se lo compra invece una grande azienda, Chanel lo ha fatto in Francia ma anche in Italia con tanti piccoli produttori di cui appunto era interessata acquisire il know-how. Questo non vuol dire che, anzi, poi magari la rafforza la struttura produttiva, però a quel punto è in pericolo il marchio, perché allora a quel punto diventano i cappelli fatti per Chanel, non più i cappelli Borsalino. Sì, anche se, come tu ricordavi, in altri casi proprio sia Kering, sì, che Louis Vuitton Hennessy hanno comprato, hanno mantenuto i marchi, hanno anche aumentato la produzione di investimenti. Sì, la loro idea è quella di rilanciare, di comprare un know-how ma di comprare anche un marchio. In questo caso c'è un po' questa incognita, un po' della dimensione, anche se poi è talmente speciale questo marchio. Pensate che il 30% dei ricavi viene dai copricapi religiosi, in particolare per gli ebrei ortodossi di Gerusalemme e di New York. Non c'è nessuno che glieli fa se non glieli fa la Borsalino, e questo un gruppo come LVMH o un imprenditore lungimirante lo capisce. Insomma, c'è del grande potenziale, però a meno che non spunti anche un imprenditore italiano. Sì. Questo nel giorno in cui, visto che adesso passiamo alla borsa, ha debuttato a Piazza Affari il nuovo indice FTSE Italia Brands, quindi è la vetrina dei marchi italiani più di eccellenza: Autogrill, Brembo, Brunello Cucinelli, Campari, Damiani, De Longhi, Ferrari, Fiat Chrysler, Fila, Geox, Luxottica, Moncler, OVS, Piaggio, Peninfarina, P Quadro, Pirelli, Safilo, Salvatore Ferragamo, Tecnogym, Tod's, Yux, Net-a-Porter. E allora, sono 22 titoli appunto pari a 110 miliardi di capitalizzazione. Allora, nel ringraziare Giulia Crivelli, passiamo alla borsa. Borsa che aggiorna adesso con Wall Street, o meglio con il Nasdaq, che per la prima volta nella sua storia arriva a 7.000 punti. Ed è Wall Street, poi leggermente ripiegato, che comunque va bene, più 0,76%. Il Dow Jones, sempre spinta dai calcoli che si fanno sulla riforma delle tasse per le società, che avvantaggerà in primo luogo le società e che si appresta a diventare legge la riforma di Trump. La giornata di oggi, molto bene Moncler, ma in primis Saipem più 4,70% e poi Leonardo più 3%, Case New Holland più 2,80%, come Boots Unicem, Fiat Chrysler più 2,5%, Unipol più 2,5%, Moncler più 2,20%, Exor più 2%, ancora segnalo Campari più 2% come Enel e Tenaris, Ferrari più 1,90% come Recordati e Brembo. Fronte opposto è rappresentato sostanzialmente da Mediaset meno 2,40%, Pirelli meno 0,90%, Banco BPM meno 0,70%. Oggi le banche abbastanza tranquille, dico abbastanza perché invece il Credito Valtellinese ha perso un 3,65%. Salvatore Gazziano, responsabile strategia di investimento di Soldi Expert, buonasera. Buonasera a voi. Sapete che ogni tanto intervistiamo invece che i colleghi di Radio Core gli operatori di borsa e gli operatori sui mercati. Allora, Mediaset mi sembra di poter dire che, insomma, essendo molto salita, si allungano forse i tempi della pace con Vivendi e il mercato va a vendere? Ma sicuramente potrebbero essere state oggi determinanti alcune prese di beneficio. Domani è una giornata molto importante su quello che accadrà o non accadrà, perché si aspettava la famosa udienza del 19 dicembre della vertenza con Vivendi, dove sono stati richiesti 3 miliardi di euro. Proprio su Sole 24 Ore negli scorsi giorni è stato fatto filtrare che questa riunione potrebbe saltare, questo potrebbe significare che l'accordo è molto vicino, e sicuramente nella giornata di oggi, in assenza di notizie ufficiali su quello che potrebbe succedere domani, le prese di beneficio, ricordiamo che il titolo nelle scorse settimane, grazie anche al fatto che già in venerdì è stato votato dall'assemblea di Mediaset un nuovo regolamento per quello che riguarda il consiglio di amministrazione, che ha visto di fatto la non presenza di Vivendi, diciamo, sta speculando il mercato che si possa arrivare a un accordo che potrebbe prevedere anche una parte di cash di rimborso molto significativa, oltre che accordi fra il gruppo Telecom Italia e Mediaset. Allora, da questo punto di vista, oltre a Mediaset, abbiamo visto andare bene anche i titoli, diciamo, del lusso, e Moncler che è ai massimi, più 2,30%. Qui vale il fatto che le società del lusso potranno avvalersi del patent box, no? Che dà benefici fiscali poi su fronte tasse. Sì, diciamo che da circa un anno è entrata in vigore questa normativa che... Esatto, il patent box, che prevede di fatto una tassazione agevolata per le aziende che dispongono di brevetti e marchi, e questo nel caso delle società del lusso è sicuramente una carta che giocano. E proprio in questi giorni è stato annunciato che Moncler ha stipulato proprio un accordo che dovrebbe prevedere un risparmio fiscale di circa 35-40 milioni di euro, e quindi abbassare diciamo in maniera sensibile anche il cosiddetto tax rate, quindi più utili per tutti, soprattutto per Remo Ruffini. L'unica notizia che un po' ha controbilanciato, ma il mercato aveva già in parte scontato, e che ha anche dovuto transare con l'Agenzia delle Entrate un'avvertenza sul cosiddetti transfer price di circa 20 milioni di euro, ma parte di questi soldi erano stati già accantonati, quindi il titolo comunque è visto molto positivo, non solo per il freddo che spinge le vendite dei piumini, ma proprio perché è una delle aziende che ha maggiori visibilità degli utili, ha una redditività molto forte, nonostante il price earning è comunque intorno a 18-19 volte gli utili. Allora, su Generali invece c'è notizia, il titolo poi guadagna lo 0,45%, ma ceduto la controllata irlandese ai generali Pan-Europe. Fiat Chrysler direi che si avvantaggia, ma mi corregga se sbaglio, soprattutto del rialzo del giudizio da parte dell'agenzia di rating Fitch per Fiat Chrysler più 2,5%. Andiamo sul credito valtellinese, che fa notizia perché in una giornata in cui le banche non sono andate male, invece ha perso un altro 3,65%. Sì, anche qua per credito valtellinese domani sarà una giornata piuttosto importante, perché si terrà proprio l'assemblea degli azionisti che dovrebbe deliberare in merito al famoso famigerato aumento di capitale da 700 milioni di euro. Dico famigerato perché da quando è stato annunciato il titolo è piombato fra ribasso, tanto che perde da inizio anno circa il 66%, e domani l'assemblea sarà molto significativa, perché sarà importante anche vedere se saranno presenti gli azionisti, soprattutto i piccoli risparmiatori che detengono oltre il 55-60% del capitale. È un azionariato molto diffuso, c'è un azionista più importante e significativo, si è scoperto da qualche settimana, che è un francese, un re dei mercati, un certo Denis Dumont, che ha già annunciato che aderirà con il suo 5%, ma sarà importante vedere come si comporteranno a Sondrio e intorni domani. Allora, in attesa dell'assemblea di domani del credito valtellinese, il miglior titolo Terni Energia più 15,60%. Qui c'è notizia anche in questo caso, no, per Terni Energia? Sì, Terni Energia sì, è un titolo che in realtà negli ultimi mesi non ha dato grandi soddisfazioni, diciamo un titolo molto piccolo, però sicuramente c'è stata un'offerta vincolante per alcuni asset di questa nel settore fotovoltaico, e quindi da questo punto di vista il mercato si è accorto della sottovalutazione di questa parte e ha spinto addirittura più 15,5 il titolo questa mattina. Allora, dicevo, migliore in assoluto Terni Energia, poi Alphabet classe A più 8%, Innovatech più 6,70%, Ecosantec più 5,80%, fronte opposto Portale Sardegna meno 5,47%, Credito Valtellinese meno 3,65%, Digital Magix meno 3,60%, Caltagirone meno 3,20%. Grazie anche a Salvatore Gazziano, appunto responsabile strategia di investimento di Soldi Expert. Vedo che c'è qualche fedelissimo del programma che continua a chiedermi: ma verranno l'astrologa e Giovanni Tamburi? Sì, verranno, e quando mai ce li siamo fatti mancare? Due approcci leggermente diversi al mondo degli investimenti nel mercato dei capitali. Una è Grazia Mitti, che ha scritto un libro su investire con gli astri a suo tempo per il Sole 24 Ore, e l'altro è Giovanni Tamburi, che dirige e gestisce uno dei principali fondi di investimento di private equity in questo paese, cioè investe su aziende quotate ma anche non quotate per far fruttare poi i suoi azionisti, cioè chi gli dà i soldi da gestire. E li avremo se non sarà modificata la data, venerdì dopo la classifica astrologa e Tamburi. Traffico, e andiamo sull'audizione del ministro Padoan in commissione bicamerale sulle banche, che ha avuto un elemento di merito sulla vigilanza abbastanza forte, e cioè ha detto, più che nel dire la vigilanza non ha sempre funzionato, è stata ostacolata, secondo me la frase più forte è quando Padoan ha spiegato come si è arrivati alla conferma di Visco, che non è stato esattamente un commento solo positivo. E poi lo spostamento a lato, così l'abbiamo definito, nei confronti di Mariana Boschi, perché ha detto: io non ho mai autorizzato né chiesto che mi venisse riferito alcun ministro a incontrare i vertici delle banche. Come dire, se iniziativa c'è stata, è stata un'iniziativa personale, non gestita da me. E poi Padoan ha continuato su questo, perché ha anche chiarito che il suo rapporto che ha appreso dalla stampa degli incontri del ministro Boschi con alcuni banchieri o esponenti della vigilanza: non ho mai autorizzato nessuno a parlare con altri di questioni bancarie, né ho richiesto che persone o membri del governo avessero contatti con esponenti del mondo bancario e venissero riferire a me. La responsabilità del settore bancario è nel governo in capo al ministro delle finanze, che d'abitudine ne parla con il presidente del consiglio. Dopo il traffico ascolteremo anche la voce di Padoan. Focus Economia. Questa significativo cambiamento del quadro regolatorio è avvenuto non in un contesto di attività normale dell'economia e dei sistemi bancari, ma in un contesto di gravissima crisi, e di crisi che, come è ben noto, è la più severa nel dopoguerra, se non addirittura di un periodo più lungo, in cui le singole banche, in particolare in un paese a struttura bancocentrica, come si dice, come l'Italia, è stato particolarmente rilevante, quindi le situazioni di operatività delle banche era già di per sé molto colpito dalla severità della crisi. Quindi il giudizio che si deve dare dell'attività di vigilanza va tenuto presente nel contesto di queste due situazioni, un cambiamento molto radicale del quadro di vigilanza e una situazione molto grave del sistema bancario. Non ha autorizzato nessuno, anche perché nessuno mi ha chiesto l'autorizzazione. La gestione, come lei ricordava, delle questioni bancarie è ovviamente in capo al Ministro dell'Economia e delle Finanze, che d'abitudine ne parla molto spesso nelle situazioni difficili col Presidente del Consiglio. Questi due passaggi, a mio avviso, più importanti. Il primo riguarda la vigilanza bancaria, non tanto sulle vendite in generale, e poi l'altro invece riguarda se lui avesse o meno autorizzato i ministri a intrattenere rapporti con le banche. Fanno rumore tutti e due, ma chiedo a Marco Ferrando un'analisi di tutti e due, perché sul fronte di Banca Italia non è che proprio Padoan abbia detto la vigilanza ha agito in un quadro difficile, in alcuni casi si poteva fare meglio. E poi voglio leggere il passaggio in cui spiega perché si è scelto di riconfermare Ignazio Visco come governatore della Banca d'Italia. Perché ha detto, insomma, attenzione, bisognava dare un segnale di continuità ai mercati internazionali. La decisione è stata ispirata essenzialmente alla continuità istituzionale in un contesto molto delicato, pur riconoscendo che in alcuni singoli casi la vigilanza poteva fare meglio. Che tradotto vuol dire: abbiamo riconfermato Visco perché sarebbe stato un segnale di instabilità non riconfermarlo, non perché se lo meritasse così tanto, se posso forzare l'analisi. E nel caso della Boschi, dire: guardate, io non ho autorizzato nessun ministro, quindi se la Boschi l'ha fatto è un'iniziativa sua, io parlo di queste cose, di cui ho la delega, perché sono ministro delle finanze, con il Presidente del Consiglio, e non ho mai chiesto a nessun ministro né di intercedere né di riferirmi la cosa. Restiamo su un piano politico, perché dal punto di vista del contenuto sappiamo che poi nulla di questi incontri hanno portato questi incontri, ma è un piano politico, diciamo, di peso. Hai ragione, io non sono un esegeta, diciamo, professionista del ministro Padoan, ma mi sembra di poter dire che oggi è stato un Padoan più, come dire, disinvolto del solito, sì. Nel senso che effettivamente su Visco, che peraltro domani sarà in commissione, quindi comunque parliamo del governatore di Banca d'Italia che appunto domani sarà audito, come dici giustamente, ha preso, diciamo, non le distanze, però ha motivato forse anche più di quanto non fosse necessario, come se l'avesse giustificata. E quindi sì, motivando, dicendo: non Visco bene aveva fatto, abbiamo voluto dare un segnale. Ha detto: non volevamo dare un segnale di incertezza e quindi abbiamo confermato Visco pur sapendo che la vigilanza non sempre ha lavorato come avrebbe dovuto, perché la frase è inequivocabile. Sì, peraltro smarcandosi anche un po' dalla posizione ufficiale, diciamo, del governo, che per mesi sembrava avesse blindato la conferma di Visco. Invece adesso dalle parole di Padoan evidentemente c'è un po' di presa di distanza su Visco. Sulla Boschi mi sembra ancora più forte la presa di posizione, perché di fatto politicamente l'ha scaricata, nel senso che noi abbiamo detto passo a lato, come dire, hai fatto tu, chiesto io, ripeto, quando qualcuno continua a chiedermi ma cosa vuol dire distinzione tra merito e elemento politico, vuol dire nel merito capire se queste mosse hanno cambiato il destino di queste banche, e così non è avvenuto, perché le quattro banche sono fallite, come è fallita Popolare di Vicenza, che non c'entra niente con la Boschi, né Veneto Banca e quant'altro. Quindi nel merito non è successo nulla. Altra cosa è il rapporto politico, per cui certo che se noi stessimo commentando un'operazione riconducibile a un incontro dell'allora ministro con qualche banchiere, parleremo anche di contenuto oltre che di opportunità politica, ma siccome nulla è andato in porto, Questo vale anche per quello che dirà Ghizzoni fra due giorni. Non sarà importante capire perché non ha aiutato la Popolare di tanto, non l'ha fatto, la Popolare d'Etruria, ma capire se conferma o no questo interessamento del ministro, come è scritto dall'ex direttore De Bortoli. Scusami, ti ho interrotto sul peso politico anche nei confronti della Boschi. No, è così, perché di fatto Padoan ha, se vogliamo, un po' avallato l'interpretazione ex post molto, molto critica sull'interventismo della Boschi. Sarebbe interessante capire se questa domanda fosse stata fatta a Padoan 2 anni fa, cioè quindi quando stava iniziando a prendere forma da un lato il disastro bancario con le quattro banche e poi le altre, e dall'altro stava anche emergendo la responsabilità politica dentro a questa vicenda, se la risposta sarebbe stata lo stesso. Io ricordo che era una domenica pomeriggio, 22 novembre, qualcosa del genere, certo, il giorno in cui venne deciso il salvataggio delle quattro banche, da Palazzo Chigi si fece filtrare informalmente la Boschi quando è passato il decreto, è uscita dalla stanza, proprio fatta passare come fosse un dettaglio. Ecco, quel giorno lì, chissà se appunto si fosse ragionato quel giorno lì sull'opportunità politica di un coinvolgimento in prima persona della Boschi su quella partita, io non credo che la risposta sarebbe stata lo stesso. Comunque, il dato di fatto è che Padoan si è scansato, se posso usare un termine non economico, dal ruolo e dalle iniziative dell'allora ministro Boschi. Ha detto: io non ne sapevo nulla, non ho mai chieste delle banche, parlo io col Presidente del Consiglio quando devo dare adito a iniziative di carattere formale, e ha dato un calcetto così anche al governatore Visco, perché ha detto: t'abbiamo confermato perché non volevamo casini internazionali, ma sappi che secondo la mia valutazione di ministro la vigilanza non sempre ha operato nella maniera migliore, perché come dobbiamo interpretare la frase, in alcuni casi si poteva fare meglio. Sì, peraltro poi un po' ha corretto il tiro successivamente, sulle venete ha detto che, esatto, sulle venete in realtà lui si riferiva perché inizialmente l'agenzia avevano battuto nelle banche venete, la vigilanza è stata insufficiente, poi lui ha chiarito che si riferiva al fatto che la vigilanza non abbia avuto il modo di vigilare in maniera sufficiente, però la prima frase riguardava la vigilanza nel suo complesso. Domani Visco, dopodomani Ghizzoni, mi sa che torneremo a parlare dell'aspetto anche e soprattutto politico. Oddio, con Visco domani non può parlare solo di politica, deve chiarire anche perché non hanno visto queste crisi per alcuni conclamate. Quindi l'appuntamento è a domani. Intanto grazie a Marco Ferrando e da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, e noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.